Sono stato convocato. Sono stato convocato. Che vuol dire che sei stato convocato? Ma come cosa vuol dire? Non ci vuoi andare? Dimmi che devo girare, io giro. No, devo andare. Se ti convocano, tu vai. Possiamo cominciare! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quello della Champions adesso mi sembra veramente un po' esagerato, mi sembra una qualcosa che riguarda più Juventus, Roma e Napoli, forse potrebbe inserirsi l'Inter. No, è chiaro che la vittoria di questa sera ci dà delle speranze ancora più concrete per arrivare all'Europa. La Roma può arrivare al 95, quindi bisogna continuare sulla corsa su noi stessi, manca ancora un po' di vittorie e piano piano bisogna farlo. Questo qui, lui deve riconoscere nella partita di pallone, nella partita importante, quello che è il massimo del godimento della sua vita, perché lui ha una qualità veramente da animale. Però anche sul rigore, se ci fosse stata la VAR, come ho sentito da qualche parte, probabilmente il calcio di rigore sarebbe stato da ripetere, perché c'erano due calciatori del Sassuolo dentro l'area di rigore, perché se va visto il regolamento fino in fondo, va visto fino in fondo. E noi ne avevamo uno sul allora calcio di rigore di Bacca, VAR. E loro l'avevano due. Fanno segno di cominciare, ma io, sapete, potrei anche andare avanti a sentire Per Gema e la voce più bella del rock attuale, Eddie Vedder, pronto alla battaglia con chi dice il contrario per un'ora e mezza, la durata del programma. Peccato che abbiamo un sacco di cose da dire, no? Peccato, fortuna. Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato, grazie per la scelta, se l'hai scelto tu, in regia e... Edoardo Lavezzari in redazione. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come ciao. Va? Sei d'accordo su Eddie Vedder? Assolutamente sì. Mi raccomando, devi dirlo per ragioni di partito, cioè non hai alternative. Di che parliamo? Allenatore, abbiamo sentito Gasperini, abbiamo sentito Spalletti, Montella. Sì, se c'era la VAR doveva ripetere il rigore, però quello causato da Paletta, non concesso al Sassuolo, la VAR serviva a poco. Domenica di disastri arbitrali, di crolli come quelli dell'Inter e del Napoli, di trionfi come quelli della Roma, con lo stadio in tasca e il saccheggio di San Siro, Zemanlandia che non regge più di una partita, cosa scegli? Cosa peschi dal mazzo? Quale busta? Partirei dalla Roma, perché insomma la notizia del weekend, secondo me, cioè la notizia di sabato è ovviamente l'Atalanta col Napoli, la notizia di ieri è la vittoria della Roma. Che cambia tutto negli scenari sia dello scudetto, anche se credo che la Juve sia strafavorita, ma insomma tiene ancora in vita almeno per un'altra settimana qualche ipotesi di tipo diverso, ma soprattutto dietro riconfigura una classifica completamente diversa, con Napoli che deve stare attento all'Atalanta, direi soprattutto alla Lazio, e con l'Inter che fa un passo indietro, continua a pensare che abbia un buon passo. La partita di ieri sera secondo me conferma quello che avevo detto tante volte, che secondo me la Roma e io credo anche il Napoli, nonostante tutto, abbiano qualcosa in più dell'Inter. Sì, che però secondo me avrà qualcosa. Per carità. Allora, però... poi facciamo questo discorso, che però secondo me l'anno prossimo avrà magari qualcosa in più della Roma e del Napoli, perché io mi aspetto un'estate esplosiva da parte di Suning. Non lo dico per far contenti i tifosi interisti. Oggi forse un po' abbacchiati, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Lo dico perché lo penso e lo dico perché continuo a rimbalzare queste voci, non so quanto fantasiose, poi approfondiamo, di un possibile arrivo di Conte per lo scontro finale con la Juventus, ovviamente con un Inter rafforzata. Allora, all'Oscar, come sai, no, prima ti voglio chiedere un'altra cosa. Parleremo più tardi di Donnarumma e delle frasi di Raiola. Domanda a Pierluigi Pardo, grandissimo portiere da tutti riconosciuto. Non sei stopperone Pardo, sei Pierluigi, sei stopperone, stopperone come te l'ha battezzato Sacchi. Posso qualificarti come portiere? Assolutamente, se ne hai facoltà, certo. Allora, questi tre rigori tirati a lato della porta nel corso della stagione a Donnarumma, io leggevo stamattina, possono essere causati dalla necessità di angolare troppo il tiro, il calcio, vista la stazza del portierone Donnarumma. Sì, sì, ma insomma... È una lettura condivisibile? È una lettura, sono ancora troppo pochi, diciamo, come indizi, no? Cioè, statisticamente non è ancora, secondo me, un dato rilevante al 100%, però insomma che Donnarumma abbia una ottima presenza, non scenica, ma in porta, sì, diciamo, un'ottima presenza scenica in porta, non ci sono dubbi, e quindi il ragionamento, secondo me, ci sta... È un ragionamento che fila, ripeto, è ancora un po' presto per poter arrivare a una conclusione definitiva, però è ovvio che è uno di quei portieri che occupa bene la porta e che quindi fa sì che l'attaccante debba angolare, debba trovare delle soluzioni un pochino più complicate, no? Senti, complimenti per la tua irruzione di prima, ti ho visto su Mediaset Premium, sì. Irrompere nello studio del TG Sport, sì. Grande, un blitz in pieno stile Pierluigi Pardo con Papu Gomez e Caldara che saranno tuo ospite stasera, no? Sì, sì, sì. Li avete blindati, li avete chiusi? No, abbiamo fatto un'intervista che sentiremo stasera, poi abbiamo Ezio Greggio, poi abbiamo ovviamente Mughinda, Bata, Oriemba. Tutti in retroscena di questi giorni di Ranieri, perché tutto questo Ranieri è volato nella capitale. Che c'è dietro la scena? No, c'è un uomo, credo, abbastanza deluso, ovviamente anche abbastanza sorpreso per quello che è avvenuto e che insomma sì. Però sta serenamente con sì. La figlia e il nipotino, quindi no. Se ne fa una ragione e guarda l'estratto conto che non gli dà torto, dato male, anche qui poi ve la e racconto anche magari a qualche prospettiva certamente a qualche prospettiva poi ve la racconto, ma più tardi nella seconda parte, quella di Mares che fa un tweet grazie Claudio e il popolo dei twitteristi gli si rivolta contro perché dice ma come brutto serpente tu l'hai voluto mandare via. Avremo un sacco di temi, poi ve li dico, ve li snocciolo, intanto andiamo con il traffico, vi aspetto al telefono 800 24 00 24 e torniamo subito. Tutti convocati. Convocati. Allora, ti dico che dobbiamo cambiare programma perché ho ricevuto più messaggi sui Pearl Jam che non sul calcio. Beh, ottimo. Ottimo, va bene, noi siamo pronti. Ragazzi, accogliamo ogni tipo di suggerimento. Allora, all'Oscar hanno sbagliato il comico, a dir poco, hanno sbagliato, aprendo la busta, ad annunciare il vincitore del premio, che in realtà era un altro, una figura epocale, mentre Pioli secondo me ha sbagliato la formazione in maniera abbastanza evidente ieri sera. Lo sentiamo Pioli? Se l'ho fatto perché ero consapevole, credevo che avevamo le carte in regola, le caratteristiche per contrastarli bene nella fase difensiva, per cercare di essere pericolosi nella fase offensiva, altrimenti avrei fatto scelte diverse. Le scelte sono state queste perché erano quelle che ritenevo le migliori per affrontare questo tipo di avversari. Mentre Spalletti dice ma come adesso ci avete rotto le palle con gli arbitri a nostro favore per tutta la stagione, mo beccatevi questa. Se Pioli ha messo a posto con me, tu lo devi chiedere a lui, perché è lui che ha tirato, siete voi avete tirato un ballo me, io non ho tirato un ballo lui, non ho tirato un ballo voi, siete voi che tutta la settimana andate lì a preparare non so che cosa, penso l'abbiano capito che della classe arbitrale non siete contenti, ma io non v'ho fatto niente e non v'ho tolto niente. Allora, io saluto e ringrazio una delle voci più popolari della Roma del calcio, forse più popolare, Carlo Zampa. Ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ciao, buon pomeriggio. La più popolare, Pardo, voce della Roma. Sì, quella storica. Quella storica. Che mai annullato, da che mai annullato in poi. Senti Carlo, la Roma inizia alla grande, il tuffo nell'imbuto, c'era l'Inter, poi c'è il derby mercoledì e c'è il Napoli sabato alle ore 15. Però mi sembra una Roma. C'è anche l'Europa League, insomma. C'è anche l'Europa League, dove peraltro la Roma ha vinto 4-0 a Villarreal, dove ieri il Real Madrid stava perdendo 2-0 e poi ha ribaltato il risultato e ha vinto 3-2. Ma questo è un dettaglio. Fatto sta, rimanendo sulla partita di San Siro, che ieri ha preso a sberloni l'Inter. Ma insomma, ha mantenuto per adesso, sta mantenendo un trend straordinario la Roma in questo 2017, insomma, fatto salvo la gara, chiaramente parlo del campionato, fatto salvo la gara di Genova, quella con la Samp, persa per 3-2, per il resto è stato un percorso netto, di gol ne ha presi pochissimi, cioè in tutto, compreso quello di ieri, nel 2017 in campionato sono stati 4, anzi 5, scusa, 3 ne ha presi contro la Samp, uno contro il Torino e ieri quello di Icardi contro l'Inter. Ma per il resto, secondo me, ha strameritato ieri la vittoria la Roma. Ha dimostrato in questo momento che in confronto all'Inter è di una categoria superiore. Insomma, io poi mi rendo conto che adesso le polemiche sugli arbitri, i rigori, quando poi si va a vedere le statistiche, la Roma è quella che comunque di più di tutti nell'area di rigore avversaria. Insomma, quindi è chiaro, diventa anche molto più facile, insomma, poter subire dei calci, dei falli con calci di rigore. No, ma mi rendo conto più che altro perché purtroppo sono lì Pioli ancora si porta dietro un po' le scorie del suo passato, perché qui a Roma i laziali sono complessati, vivono del complesso Roma da sempre, cioè loro non pensano mai alla Lazio, pensano soltanto alla Roma. Adesso ti chiamo Cruciani, ti vado a chiamare Cruciani. L'hanno trasmessa negativamente anche a Pioli, quindi insomma, Pioli evidentemente ancora c'ha questa forza. Più che altro Pioli sente le scorie di Torino, probabilmente della gara di Torino, perché da quella gara l'Inter non è stata brillantissima. Poi ieri, secondo me, ha sbagliato la formazione, onestamente, mancava Miranda, però l'Inter non mi è piaciuta come schieramento e come idea, Pardo. Sì, no, ma sicuramente può essere pure questo, però penso che sia anche giusto dare atto e comunque meriti alla Roma. Nessuno dice il contrario. No, ma ci mancherebbe, però come stavi giustamente dicendo tu, anche per quello che riguarda Villarreal. Insomma, vincere 4-0 ad esempio lì contro una squadra che fino a quel momento dimostrava di essere la formazione a aver subito meno gol anche nella Liga, e andare lì e vincere comunque con una grande facilità, dimostra che in questo momento, insomma, è una delle squadre più in forma e che comunque gioca meglio. Sì, che ne pensi, Pardo? Ma io penso che la Roma ieri abbia dimostrato di essere più forte dell'Inter, scusa la banalizzazione, nettamente, perché è andata in casa dell'Inter. Nella dinamica Champions League c'è andata con 2 risultati su 3, poi lascia perdere che ancora ovviamente la Roma legittimamente ha qualche sogno di scudetto, però diciamo nella dinamica dei rapporti di forza fra le due squadre era l'Inter che doveva vincere tutti i costi la partita, la Roma poteva anche bastare un pareggio e la Roma invece ha interpretato la partita fin dai primi minuti con una prepotenza assoluta e ha vinto secondo me in maniera molto meritata. Poi il rigore c'era, poi con quel selvaggio di Nainggolan è una furia selvaggia, ha ragione Spalletti. Pare ieri ho twittato questo dato che mi impressiona, lo so a memoria perché avevo preparato Roma-Torino e nel frattempo c'è stato il sorpasso, cioè Nainggolan adesso ha fatto 15 gol in Serie A con Spalletti ho appena detto che lo sapevo a memoria, non me lo ricordo più. Comunque era in 42 partite e prima di Spalletti aveva fatto 14 gol, quindi uno in meno in 201 partite, quindi questo ti dà l'idea di come abbia cambiato anche dal punto di vista realizzativo. Si dirà, d'accordo, l'ha avanzato di posizione, però vabbè, benissimo, cioè, so come dire, è chiaro che è frutto anche di uno spostamento in avanti del raggio d'azione di Nainggolan. Sì, Però vuol dire che questo spostamento in avanti era assolutamente opportuno. Veramente, no? Veramente un selvaggio per come gioca, ma per l'intensità con cui gioca. Faccio per l'intensità con cui calcia. Pazzesco, sì. Nainggolan ha segnato nelle ultime 4 partite in campionato, quindi 4 partite consecutive per un centrocampista, credo che siamo a un passo dal record. Non ce l'hai al fantacalcio, naturalmente. No, non ce l'ho. 5 gol nelle ultime 4 partite. Guarda caso, 5 gol dopo il famoso episodio del video. Sì. Rubato, cioè, anche questo qualcosa vuol dire. È interessante questo. È un giocatore che, cioè, che poteva avere un, diciamo, poteva aver passato una merda, scusa il francesismo. Sì. E a quella, ha reagito in questo modo. Modo questa, cioè, è bella, questa è bella, questa è bella, sono d'accordo. La butto a Carlo Zampa e agli ascoltatori. 800240024. C'è Antonio Interista che scrive: ma Zampa è il telecronista di quella squadra che ha vinto 3 scudetti in tutta la sua storia? Sì, assolutamente sì, ne sono anche orgoglioso. Ne sei giustamente orgoglioso. Assolutamente orgoglioso comunque di fare il cronista di una squadra che poi rimane assolutamente pulita nel calcio italiano. È grattac. Senti, mi racconti quella di Spalletti e del suo contratto e di tutto il cinema che ne sta venendo fuori? Ah, ma adesso ancora no, si dovrà aspettare. Io sono convinto che poi alla fine lui rimarrà. Mi auguro che intanto da parte della società ci sia l'assoluta consapevolezza che adesso con l'ok anche per lo stadio va riempito, e per riempirlo bisogna comunque mettere all'estero una squadra di alto livello. La Roma in questo momento è una squadra sicuramente di livello inferiore rispetto alla Juventus, al momento è la prima, diciamo, delle seconde, quindi insomma di quelle dopo la Juventus, però bisogna anche mantenerlo. Ora, per mantenerlo bisogna in qualche modo anche, diciamo così, accontentare determinati giocatori di livello. Bisogna capire mano l'asse quello che accadrà. Ecco, si parlava di Nainggolan. Ecco, Nainggolan è rimasto alla Roma, sta alla Roma perché è voluto rimanere lui. Sì. Perché è normale, perché la Roma non riesce a pareggiare comunque le offerte di grandi squadre europee come il Chelsea. Ecco, allora lì ti faccio un'ultima domanda, poi vado avanti con Pardo. Un discorso che abbiamo iniziato ieri in tutti i convocati weekend, e Pardo lo sa bene. Adesso che c'è lo stadio, che la Roma va in campo con lo stadio in tasca, che pallotta lo stadio in tasca, anche se non è esattamente quello che il progetto che voleva lui. È quello che voleva lui, lo stadio. Allora, i tifosi della Roma, ieri abbiamo sentito Luca Terese, si aspettano che quest'estate il signor Pallotta blindi i pezzi da 90 e butti una bella paccata di milioni di euro sul mercato. Succederà questo? Beh, io me lo auguro, insomma. No, te lo auguri. Secondo me lo te auguro. Io non sono nella succederà di Pallotta, questi, quindi non lo so. Io temo che comunque un giocatore possa andare via, insomma, Manolazzo, diciamo che è quello più indicato eventualmente. Però ti ripeto, ecco, Nainggolan ha fatto una sua scelta. Io mi auguro che questa sua scelta poi venga chiaramente premiata dalla società, ma oltre a lui mi auguro che giocatori come Strootman possano rimanere ancora per tanto tempo, ma a questi naturalmente bisogna aggiungere anche dei tasselli importanti, ragazzi, quindi sì. questo bisogna farlo. Adesso lo stadio diciamo abbiamo l'ok, speriamo di vedere la posa della prima pietra entro il 2017, darà la possibilità a questo anche a Pallotta di avere e di trovare magari altri finanziatori e quindi di poter arricchire, se vogliamo, la società, di far fare alla società e alla squadra quel salto per poter intanto arrivare a pari della Juve. Infatti questo, grazie Carlo, grazie a voi. Ciao Carlo Zampa. Ciao. No Pier, perché vale quello che dicevamo ieri, cioè io non mi aspetto come Terese che questo arrivi e st'estate arrivi con un treno carico di milioni di euro. Non me lo aspetto neanche io, però credo è un discorso che andrà fatto gradualmente, nel senso che comunque lui sullo stadio si è speso molto, quindi è abbastanza difficile che possa prendere una strada diversa, che possa fregarsene al 100%. Io credo che qualche investimento a questo punto lo farà, per un discorso anche suo, diciamo, di immagine, che Panolas possa partire, lo penso anch'io. Sì. Però insomma credo che comunque arriveranno i sostituti. Io non so, ieri Telese parlava della logica del doppio postismo, no? Di questa Roma da secondo del secondo postismo. Io credo che sia molto difficile superare questo tipo di situazione. Penso che i benefici siano più di prospettiva, cioè io credo che la Roma sarà più attraente con lo stadio, sarà, lo dico così, non è che sappia niente, ma non mi stupirebbe se arrivasse qualcun altro a comprarla. No, ma basta, cioè, no, va bene, un traghettatore che porta la squadra, che tiene la squadra sui livelli alti, che fa questo grandissimo investimento, uh-huh, e poi magari con lo stadio, che significa la uh-huh possibilità di fare business ogni singolo giorno e non più soltanto, no, certo, chiaro, 19 chiaro giorni all'anno, chiaro, e a quel punto la Roma diventa nettamente più attraente. Chiaro. Però ripeto, è però un investimento di medio periodo. No, ma basta leggere la storia della Juventus. Non è che nel momento in cui ha avuto, che la strada per la Juventus è stata miliardi di volte più semplice nella costruzione dello stadio, certo, però non è che è arrivata lì, ok, adesso stiamo per costruire lo stadio, bam, esplodiamo subito. È stato un percorso molto graduale. Adriano, provincia di Bergamo, ascoltatore prima della borsa. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente chiedere un'opinione a due addetti ai lavori come voi. Dove può arrivare questa Atalanta? Cioè, ho visto che la gente sta cominciando ad accorgersi di noi. Meravigliosa l'accoglienza all'aeroporto, 3.000 ad accogliere l'Atalanta l'altra notte dopo la vittoria sul Napoli. Io ho finito le parole. Sì, sì, io penso che l'Atalanta andrà in Europa League. Questo è il pronostico più semplice, più logico. Probabilisticamente parlando, è nettamente l'ipotesi più probabile in questo momento. Capisco che in questo momento i tifosi dell'Atalanta possano addirittura sognare la Champions, ed è giusto. Lo fanno gli stessi giocatori ed è un atteggiamento bellissimo, ed è bellissima l'accoglienza dell'altra sera. Credo che da un punto di vista di probabilità l'Europa League sia l'approdo più normale, però penso che sia una realtà, cioè io penso che possa difendere assolutamente una delle prime sei posizioni e andare in Europa, e andare in Europa League, esattamente come è successo col Sassuolo l'anno scorso, sarebbe un enorme risultato. Di Leicester ce n'è uno. Di Leicester Piranieri ce n'è uno, questo sì. Ancora una volta ci fa capire. Quando noi pensiamo al Sassuolo dell'anno scorso, all'Atalanta di quest'anno, indirettamente capiamo che cosa ha fatto Ranieri l'anno scorso. E Ranieri l'anno scorso ha fatto una cosa che non ha proprio possibilità di essere riprodotta. Di essere riprodotta, replicata e rivista. Esatto. La vita natura durante. Ci fermiamo per la borsa, poi torniamo a battagliare un po' su altri temi, su Milan e Inter in particolare. Dopo le 15 avremo Massimo Mauro e a tradimento gli faremo fare delle pagelle, parleremo di arbitri perché abbiamo una top 3 tutta dedicata agli arbitri, e poi Gagliardini che ieri ha perso la Coppa con il Southampton, con il suo Southampton, contro Gabbiadini, cosa ho detto? Gagliardini, e me li confondo, scusate ragazzi, l'anzianità che galoppa. Gabbiadini che ha perso la Coppa di Lega contro il Manchester United e ci ha voluto tutto l'Ibrahimovic possibile, però la colpa è del suo allenatore che l'ha tolto a 8 minuti dalla fine, del francese Poel. Dunque ci fermiamo, borsa. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Convocati. Ciao Gigio, sono Gigi Buffon e ti faccio tantissimi e carissimi auguri per il tuo compleanno, perché è un compleanno speciale, perché entri a tutti gli effetti nel mondo dei grandi, da grande quale sei, da grande. Hello. Mi ha fatto piacere vedere il suo video messaggio e l'ho risposto subito e lo ringrazio tanto per i suoi auguri, come tutti gli altri che mi hanno mandato gli auguri, quindi ringrazio tutti. E... Gigio da portiere Milan ha fatto tanti regali a me perché ha tante parate e io questa sera gli regalo una penna di Cartier, vediamo cosa succede. Gigio merita un grande Milan. No, Gigi si merita una grande squadra. If anything could ever be this good again. Beh, anche qui Foo Fighters, Dave Grohl, mentre io sto a Pierluigi sto litigando via WhatsApp discutendo con un comune amico che lavora per la Juventus, il quale sostiene che è Chris Cornell la voce migliore del rock. Vabbè, tanto abbiamo deciso che andiamo. Ma va. Scrivigli anche tu, dai. Beh, anche io. Che anche Monovox negli anni in cui aveva la voce. C'erano anni in cui aveva più voce di adesso. Un pochino. Non era male. No, per carità, mi inchino. Ma anche Springsteen, Anche il boss, certamente, però non so, Vedder mi fa venire i brividi, Eddie Vedder mi fa venire i brividi in certi momenti. Comunque, stiamo parlando di calcio, Frank Ordine non so chi preferisce, Fabrizio Biasin neanche, però... Io ve lo dico. Chi? Nilla Pizzi, ma smettila di fare il finto anziano, Ordine. No, io sono per Billy Corgan invece, Smashing Pumpkins. Billy Corgan, Smashing Pumpkins, che tanta roba anche Tommaso lui. Tommaso Paradiso stasera Tommaso numero uno, ma come sfondi la porta aperta? Vabbè, vogliamo parlare Nicolò, Edo, non lo so, è difficile, sono tutti bravi questi ragazzi. Ragazzi, vogliamo parlare invece, poi andiamo avanti ore e ore, chiamiamo anche Ruggeri dal Falco e il Gabbiano e lo coinvolgiamo. La voce in questo più bella della rock italiano. Rock italiano, vabbè. A chi decide, sì, io voto Ligabue, ma parliamo di Donnarumma, va, che è meglio. Parliamo di Donnarumma, abbiamo sentito, vabbè, la dolcezza del messaggio di Buffon, Galliani che gli regala una penna di Cartier, chissà che cosa succede, ma abbiamo sentito anche e soprattutto l'ultima voce, che era quella del sultano dei procuratori sportivi, cioè Minoraiola, che diceva, no, merita il Milan, merita una grande squadra. E io questi cinesi che arriveranno nei prossimi giorni so neanche chi siano, Franco Ordine. Sì, no, questi devono, secondo me si giocano tutto proprio sul contratto di Donnarumma, perché non dovessero riuscire a convincere, Donnarumma e la sua famiglia sono già convinti per conto loro. Sono già conditi? Sì. Non, perché credo che Adriano Galliani abbia lavorato fino in queste settimane, non soltanto in queste settimane, da convincere naturalmente Minoraio, il quale naturalmente parla di una squadra, cioè dice una squadra d'alto rango, e quindi dice vediamo i programmi, vediamo le disponibilità che si misurano anche con la generosità nel contratto, e quindi credo che questo è il nodo da sempre che rimane e che comunque è un nodo dinanzi al quale i cinesi non possono far altro che scioglierlo, sì. Altrimenti comincerebbero non col piede, con tutti e due i piedi sbagliati, e potrebbe già cominciare male la loro avventura. Sì, sono d'accordo sul condimento, Pardo. Sì, no, c'ho Taveri qui davanti che mi fa ridere, facciamo questa gag che ogni tanto quando c'è qualcuno che fa casino in redazione, che parla, no, che magari che lavora, e io sto lì e faccio per favore, e lui dice ma insomma non si può neanche fare la radio in pace, ma adesso i lavori, adesso devono fare i lavori, durante tutti i convocati, non lo possono fare durante il Falco e il Gabbiano, quando abbiamo finito, ma è incredibile. E no, su Donnarumma, chiudendo, io penso che Donnarumma possa e debba continuare dopo, debba dare credito al Milan. Se gli conviene. Ma sai, secondo me fa professionista, compiuto 18 anni, è ovvio, però voglio dirti, lui nasce nel Milan, ha la possibilità di diventare una bandiera di questo club, che non è un club secondario, è un club che sicuramente sta vivendo una fase di rimescolamento, in questo momento ovviamente non vale la Juve, non vale nemmeno Roma, Napoli e probabilmente nemmeno l'Inter, no? Quindi c'è qualche incognita sul suo futuro, però io un'apertura di credito da parte sua la farei, perché credo che nascere in un club oltretutto così importante ti dia la possibilità, se le cose si aggiusteranno, e secondo me si aggiusteranno, magari a giorni sapremo qualcosa di molto chiaro, di molto preciso, di entrare da protagonista, por la puerta grande, no? nel migliore dei modi in un club così importante. Quindi sì, secondo me l'apertura di credito va fatta. Poi è ovvio che se da qui a un paio di stagioni si dovesse rendere conto che il progetto Milan dei cinesi non riesce a tenere quello della Juve, tanto per essere chiaro, delle altre grandi d'Europa, è ovvio che le strade del mercato li possono portare da un'altra parte. Questo è il ragionamento che deve fare il Milan in questo momento. Cioè, partire proprio da quest'ultima frase di Pardone, perché Buffon ha deciso e ha fatto sapere che rimane fino al mondiale, quindi per il prossimo anno e mezzo /2 non c'è posto da titolare nella Juventus. Primo punto. Secondo punto, nel prossimo anno e mezzo si può valutare concretamente cosa fanno i cinesi. Io faccio soltanto una riflessione e io dico che un fondo del quale poi conosceremo l'identità frastagliata tra poco, nel quale c'è tra l'altro come finanziatore, perché è documentato che ha dato i secondi 100 milioni per la seconda caparra, Warong, che è un colosso mondiale, tirano fuori 740 milioni sull'Unghia, più i 70 che devono mettere per la copertura del fabbisogno gestionale dal 1 luglio dell'anno scorso al 3 marzo di quest'anno. Io penso che gente che tiri fuori questa roba, tutto questo popò, questa montagna di denaro, non credo che sia poi nelle condizioni di dover fare, come è successo negli ultimi tempi al Milan, il mercato a saldo zero. Sì, Biasin, che ne pensi? Queste parole di Raiola mi sembrano molto molto chiare. Ma Raiola interviene dicendo queste cose, io sarò meno romantico, proprio per quello che dice Franco, perché ha capito che c'è il pozzo dalle uova d'oro. E allora a me sembra che la sua sia un'ovvietà: Donnarumma merita una grande squadra, e te credo, però è un po' intempestivo in quello che dice, nel senso che a 5 giorni dal closing forse non è il caso di mettere questa pressione su chi deve arrivare. Lo sanno perfettamente Fassone e Mirabelli che dovranno trattare il caso Donnarumma, non lo possono fare adesso perché ufficialmente non sono ancora Milan. No, certo, ma Raiola non è la prima volta che dice queste cose, e comunque al momento non si sa ancora chi sono gli interlocutori, e Raiola dice: io conosco Galliani ma non conosco nessun altro, non ho parlato con nessun altro, e queste sono cose che lui dice da mesi. Ma scusa, Non poteva, questo ho capito, non poteva. Mentre... Ma il giorno in cui si presenta Fassone, sì, e va a trovare Mino Raiola nella sua reggia di Monte Carlo, si siede al tavolo e gli dice: allora, cosa chiedi? Vuoi sapere quali sono i nostri piani, i nostri progetti? Sono questi. Certo, si possono realizzare nel mercato di giugno, non si possono realizzare subito. Sì. Cosa vuoi per il nuovo stipendio di Donnarumma? Questo? Ti do questo. A quel punto anche Raiola, secondo me, non si può arrampicare sugli specchi. Che cosa può dire se questi gli dicono: vogliamo fare una squadra con queste caratteristiche, i nomi sono questi, questo è lo stipendio per Donnarumma, io penso che non meno di 2,5-3 netti l'anno, no, certo, merita il ragazzo. Cosa gli dici? No, gli dici quello che pensi. Bisogna vedere che cosa sono, quali sono le altre offerte. Insomma, sappiamo perfettamente che Raiola è maestro in tutto questo. Sono cose che però lui... Sai come lo convinci? Lo convinci con solo e soltanto, secondo me, ed è questa la cosa che deve mettersi in testa Fassone, proponendogli la clausola Pogba. La clausola Pogba può essere un'idea, può essere certamente un'idea. Ci fermiamo un attimo per il traffico, ragazzi, state lì. Tutti convocati. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Tutti convocati. Penso che Franco Cicciordine, come spesso accade su Fronte Milano, abbia ragione: la clausola Pogba potrebbe tagliare la testa al toro. Chi invece l'anno prossimo, sono convinto, andrà a sfidare la Juventus e l'Inter, perché lì sono ben noti i proprietari, sono danarosi. Si continua a parlare ciclicamente di un arrivo di Conte. Cosa ne pensate? Se Conte arriva davvero, si dice a Londra non si trova bene, vincerà con il Chelsea e poi andrà via. Io credo che l'Inter sia la prossima grande cosa, la prossima grande sfidante della Juventus. Biasin. Ma sicuramente sappiamo che le intenzioni di Zhang sono altissime, vuole costruire un Inter vincente in Italia, in Europa, ce l'ha detto a più riprese. Poi dalle parole ai fatti, insomma, ce ne passa. Dopodiché è vero che probabilmente c'è la volontà di affidarsi a un tecnico di prima scelta, Conte sicuramente è uno di questi. Diciamo che viene facile parlarne oggi perché in troppi, in tanti, anche tra i tifosi dell'Inter, aspettavano l'inciampo di Pioli per definire Pioli un inadatto. No, non è inadatto, credo. Non è inadatto, però 0 su 3 con le grandi ieri sera. Sì. Io sono d'accordo sul fatto che per come ha preso l'Inter la rincorsa è molto faticosa, è come nel ciclismo correre sempre contro vento. Però questa partita era sbagliata. Oggi è una buona squadra, l'Inter oggi è una buona squadra, una squadra che Pioli ha risistemato, ma non ha, adesso non voglio fare quello che, tra l'altro siamo andati adesso 6-3 nella schedina con Capuano dopo la vittoria della Roma di ieri sera, il dominio ormai è totale. Aspettavo dopo arriva il notaio a certificare. Siamo 6-3, aspettiamo Fiorentina da Torino stasera per capire se andiamo insieme 7-4, ma al di là di questo, l'Inter è una buona squadra, sicuramente una squadra oggi con un senso, con un capo, con una coda, con una buona qualità diffusa, con dei grandi progetti davanti, sono d'accordissimo. Secondo me l'Inter è in questo momento, cioè non mi sorprenderebbe di vedere l'Inter l'anno prossimo giocarsela alla pari per lo scudetto, ma oggi l'Inter non vale la Roma e probabilmente non vale neanche il Napoli. Se posso dire, farei soltanto due valutazioni, proprio partendo dal tuo lancio, e cioè la prima, ieri si è confermato che Pioli è un normalizzatore e non un potenziatore. Al di là di tutto, affrontare con quella difesa 3 la Roma, secondo me, è stato un rischio eccessivo, a dimostrazione probabilmente che non conosce ancora i limiti del suo gruppo. La seconda cosa su Conte, io penso che quella di Conte sia un'idea fissa, e cioè quella di tornare potendo immediatamente in Italia nel calcio italiano. Vi racconto tre episodi. Primo, lui è letteralmente stupito dal fatto che in Inghilterra i giocatori arrivano allo stadio con le cuffie, stanno dentro lo spogliatoio con le cuffie, è una cosa che lo fa diventare pazzo. Secondo, sono tutti convinti che i ritmi forsennati dei suoi allenamenti ai giocatori inglesi possono stare bene se vince un anno, ma non di più. Terzo, il fatto che lui sia andato a vivere per conto suo da solo a Chelsea, senza la famiglia che ogni tanto lo raggiunge su e giù, è uno dei motivi che mi fa credere in maniera fortissima al suo rientro in Italia. Quarto, se torna va all'Inter. Sicuro. Allora, possibile. Sicuro, possibile, Pardo? Probabile, così. Vabbè, il solito di Pio Cristiano. Ne cascano. Scusate, possiamo spendere però una parola per Pioli, perché Pioli non è un pazzo che schiera la difesa a tre. Fabrizio, nessuno ha detto questo, però ha ragione Ciccio. Cioè, Pioli, bravissimo, voto altissimo questa stagione, al di là di queste tre partite. Sì. Però conta un'altra cosa. Cioè, sì, però Carlo, se lui avesse Alexander Steiner, stai tranquillo che mette la sua bella difesa a 4. Il problema è che lui adesso non ha i terzini, si deve inventare queste cose. Scusa Fabrizio, la tua obiezione è naturalmente pertinente. Il problema, l'unica cosa che possiamo e dobbiamo accreditargli come spiegazione sufficiente, è il fatto che lui ha preso la squadra in corsa. Se lui avesse costruito questa squadra magari con qualche correzione giusta durante il mercato, probabilmente ne avrebbe fatta un'altra e probabilmente avrebbe avuto qualcosa di più. Io ti dico che invece ieri, al di là di tutto, per esempio nella sfida, nel duello uno contro uno tra Gagliardini e Nainggolan, è evidente che è venuto fuori lo spessore maggiore di Nainggolan, anzi direi proprio la statura internazionale di Nainggolan rispetto all'acerbo talento arrivato da Bergamo. Quindi queste sono le giustificazioni sul conto di Pioli, ma se tu vuoi fare comunque il salto di qualità abbinando a un gruppo super un allenatore top, è chiaro che devi andare su Conte. Allora ragazzi, ultima domanda per tutti, giro di sondaggio proprio rapido, Franco Ordine, Fabrizio Biasini e poi Pierluigi Pardo, che mi tengo ancora un attimo per una cosa. Chi arriva davanti, Inter o Milan, con il derby all'orizzonte? Ordine. Inter. Concordo, Inter. Inter. È un plebiscito. Vabbè, ciao a tutti. Neanche una voce. Guarda, non c'è un'altra domanda? Non c'è la domanda di riserva. No, è troppo facile. Sorry. Grazie Franco Ordine. Saluti, un abbraccione. Grazie. Ciao. Fabrizio Biasin. Ciao, adesso. Mentre Pardo aspetta Tiki-Taka, tutti i suoi ospiti, eccetera, eccetera. Adesso facciamolo gonfiare come una rana. Giorgio De Luca Rotaio. Ecco, vedi non mi gonfio De Luca. Ha detto tutto già Pierluigi. Poi no, domani ci sarà Giovanni che certificherà la sua sconfitta. L'ha certificata ieri. Già l'ha certificata ieri. E quindi complimenti a Pardo. Ha fatto 6. Ho ricevuto una telefonata. Non la migliore performance di Pierluigi finora. Solo 6. Però è in ripresa rispetto alla settimana scorsa. Ma adesso devi trovare il pelo dell'uovo. Ha beccato la Sampdoria, Beccato la Sampdoria questa notte. Non l'ho beccata. Ah no. No, e la Sampdoria altrimenti stavo a 7. La Sampdoria mi ha ballato. Che dici, notaio? Ti paghiamo apposta. Ho detto 1, ho sbagliato Sassuolo Milan che avevo detto 1 e perché può fare ancora 7 però, perché c'è la partita di stasera. Non ti aspettavi quel tipo di arbitraggio, hai messo 1. Diciamo che potevo stare con l'arbitraggio del Bari, stavo fra l'8 e il 9, comunque. Allarga. Ciao Pierluigi, ti senti domani con Capuano, con il tuo amico Capuano, perché io domani non mi presento, poi ci sono vita naturale durante. Domani De Luca io tengo un problema, poi noi ci sentiamo in privato. Vabbè, sul treno, ho risolviamo. Va bene, ciao Pier. Allora, torniamo subito dopo il GR con Massimo Mauro, cui faremo fare le pagelle. E anzi, lo faremo rispondere alle domande cattivissime di Roberto da Fermo e Gennaro dalla provincia di Napoli, se ci aspettano. A dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Ricominciamo, tutti ai vostri posti! Tutti convocati. Io sono impegnato a far licenziare in tronco Edoardo Lavezzari, che preferisce Chris Cornell dei Soundgarden, grandissimo Soundgarden, però io qui comando e quindi Eddie Vedder rimane la voce numero uno del rock. Una delle voci più belle del calcio italiano è Massimo Mauro. Ciao Massimo, è nostro amico. Ciao. Mi fa un favore. Senti, mi aiuti a rispondere a due ascoltatori che sono lì da un po'. Cavolo, volentieri. Roberto da Fermo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Premetto che quello che dirò non è un'accusa al vostro programma, anzi. Ma però se lo fosse, un mega problemi. Niente, non capisco questo buonismo che c'è nei confronti della partita di ieri Inter-Roma. Premetto che sono un tifoso della Juventus. Sì. Quando si parla, ecco, di un errore commesso da Pioli oppure bellissima partita fatta della Roma, e non si parla effettivamente degli errori che ci sono stati, errori arbitrali, cioè si passano come effettivamente degli errori, e invece quello che è successo con Juventus-Inter si è gridato allo scandalo e sono salita sul carro dell'Inter tutti i tifosi, tutti i giornali. Cioè non capisco questo trattamento, questa diversità di trattamento. Massimo. No, se ho ben capito vuole dire che l'Inter ha fatto molta più polemica nella partita con la Juve che ieri nella partita con la Roma. Sì, un po' è vero, perché ieri c'è stato un rigore che l'arbitro purtroppo per l'Inter non ha visto, Però poi l'atteggiamento dell'Inter, io l'ho anche scritto sulla mia rubrica Repubblica, l'atteggiamento dei giocatori dell'Inter, cioè, secondo me non aiuta, nel senso che sono troppo agitati nei confronti delle decisioni dell'arbitro. Con Tagliavento ci sono dei trascorsi burrascosi, certo. Insomma, non so se vi ricordate, certo, le manette di Mourinho, era Inter Sampdoria ed era l'arbitro da Tagliavento. Però a me è sembrata molto più interessante la partita ieri. Cioè, l'aspetto arbitrale è stato irrilevante per il risultato, onestamente. Piola ha sbagliato formazione, no? Mi siamo tutti d'accordo. No, come io ho detto in fase di commento proprio subito dopo la partita, a me è sembrato un atteggiamento presuntuoso, che una grande squadra lo deve anche avere, però poi deve surrogarlo con i fatti. Se invece perde, e allora schierare una difesa come quella contro la squadra più in forma del campionato è stato un po' un azzardo. No, ma anche perché io ho sbagliato termine. No, però, ma io sono convinto. Piola è arrivato lì dopo questa rincorsa. La rincorsa costa fatica, come ho detto prima, è come nel ciclismo correre contro vento. È chiaro che è una squadra stanca, però è arrivato lì con un'idea di calcio molto semplice, molto precisa, con degli interpreti ben definiti. Guarda caso, quando ha cambiato un po' le cose con la Juventus e con la Roma ieri, l'Inter ha perso la partita. Però sarebbe un peccato non dare seguito alla sistemazione della squadra, perché io non sono d'accordo, ho sentito prima la vostra trasmissione, non sono d'accordo che l'Inter è meno forte del Napoli, no? E del Milan e della Roma come organico. Diciamo che questo organico non riesce a rendere come secondo me dovrebbe, perché esterni e centrocampisti in quantità industriale come c'era all'Inter, insomma, non lo so. Sì, esterni offensivi, sugli esterni bassi, secondo me esistono dei problemi. Ma Ansaldi e Giambrosio non è che sono così scarsi, cioè, non è che sono tantissimo meglio di Steiner e Alessandro, cioè, è come giocano. Per esempio, guarda, Allegri trova una sistemazione diversa alla squadra, ma l'atteggiamento della Juve è sempre umile. Cioè, Mandzukic non è che fa l'esterno di sinistra, Mandzukic si massacra, come ha fatto Perisic tutta la partita. Mandzukic c'ha un terzino dietro, potrebbe giocare. Questo è chiaro, Massimo. E poi si vanno ad attaccare lo spazio che si creano stando 30 metri indietro. Questa, se vuoi, è una maniera umile di affrontare qualsiasi squadra, anche l'Empoli e il Palermo. Certamente. Gennaro, questa è la differenza, a mio avviso. Gennaro, tu ex tifoso della provincia di Napoli, credo. Non so se si ricorda quanti anni ha lei. Sì, come no, è Mauro, salve, buongiorno, grazie per avermi convocato. Sì, Mauro ogni tanto si dimentica che ha giocato nel Napoli. No, non se lo dimentica, ci ha scritto anche un libro, ho giocato con tre geni. Poco fa ha detto che gli esterni che c'ha il centrocampo, che c'ha l'Inter in Italia, ce l'ha solo l'Inter, quando poi lo sa bene che a Napoli abbiamo sei esterni titolari, un centrocampo abbastanza... ecco, il discorso è proprio questo. No, ma al di là di questo scherzavo. Solo però l'hai aggiunto tu. Sì, no, io sono intervenuto l'altra volta in trasmissione, proprio questo. Vedrete che quando tutta la rosa, soprattutto attaccante, la batteria davanti del Napoli rientreranno a pieni effettivi, perché sai, ha cambiato il sistema di gioco. Quando è uscito Milik per l'infortunio, ha dovuto cambiare il sistema, ha dovuto abituare al fasto nero con Mertens, i due esterni che entravano dentro tagliavano, quindi il Napoli poi questo beneficio l'ha avuto da dicembre in poi, se ci fate caso, giusto? Sì. Adesso mi sembra che Sarri sia un po' in confusione con la rosa al completo, è come se vorrebbe ritornare di nuovo all'inizio stagione la sua idea, e addirittura nel secondo tempo con l'Atalanta, tra cui faccio complimenti, una grandissima squadra, io starei attento proprio all'Atalanta per la Champions, altro che Inter, perché sono giovani, sono forti e sono bravi, non gli mancano niente. Facciamo così, io ho promesso prima che a Massimo Mauro avremmo chiesto un paio di pagelle a tradimento, le ha tirate fuori lei, allora io ti chiedo, Massimo, un voto banale all'Atalanta, che era sorpresissima di questo campionato, anche secondo me in Champions non ci arriverà, e un voto a Sarri e uno a Gabbiadini, che è andato via e ha cominciato a segnare come una belva. No, vabbè, l'Atalanta 10 lode. 10 lode, non si nonostante il mercato gli ha, lo ha, privato, gli ha privato l'Atalanta di Gagliardini, anche a gennaio sembra migliorata la squadra, non peggiorata. E quindi, cioè, onestamente, la qualità delle giocate e l'applicazione non è fare la marcatura uomo, ma poi svincolarsi da questo e giocare dalla metà campo in avanti come una grande squadra. E questa è una cosa interessantissima per un gruppo di vecchietti, sono pochi vecchietti nella squadra, e poi c'è una truppa di giovani che evidentemente non vede l'ora di diventare giocatori da grande squadra, chiaro, no? E quindi chiaro, sperano chiaro di andare a giocare in grandi squadre, perché stanno facendo veramente un campionato straordinario. Io Gabbiadini secondo me ha fatto bene ad andare via. Beh, ma cioè, non lo volevano la situazione, no? Quando poi le cose non nascono bene, è meglio cambiare aria. Gabbiadini, ieri ho visto tutta la partita ieri di Gabbiadini, avrei strozzato l'allenatore quando lo ha levato. Bravo, l'ho detto prima, la colpa è sua, ma perché lo togli a 8 minuti dalla fine? Cioè, un giocatore on fire. Ti attiri la sfiga con quella sostituzione. Bravissimo, no? Infatti bravissimo, poi la sfiga è arrivata. Bravissimo. Perché tu hai un giocatore che, anche se vogliamo dire che era un po' stanco, però non hai crampi. Ed è uno che appena tocca la palla fa qualcosa di pericoloso, ti ha fatto 2 gol e tu lo levi, in previsione anche dei tempi supplementari. 2/3 perché uno annullato che era buono. Sì, che era buono. Quindi veramente non l'ho capito la sostituzione. E poi Sarri, guarda, io Sarri lo adoro. Perché? Perché è un uomo che ha le sue idee, le persegue, raramente le cambia. Quando ha cambiato ha fatto bene a cambiarle, perché ricordo a tutti che l'anno scorso Insigne dietro le punte era una fesseria enorme, e lui fu intelligente a cambiare il suo errore, quindi ha scoperto poi il Napoli che vediamo anche in queste giornate, perché secondo me ha sbagliato soltanto l'Atalanta e ha sbagliato gol facili contro l'Atalanta, perché Mertens e Callejon ha sbagliato dei gol pazzeschi che di solito fanno. E quindi io non mi sarei a preoccupare tanto, vorrei che avesse la stessa umiltà a cambiare adesso, e cioè Mertens centravanti non può essere per la vita. Non può essere, per... può è fare... quello che dice l'ascoltatore, cioè adesso ha funzionato, cioè, alla faccia del falso 9, alla faccia del falso 9 che ti fa tutti quei gol, adesso forse è il momento di tornare all'assetto precedente. Sì, ci vuole il centravanti, e Messi si torna a fare l'esterno come lo sa fare bene, e si gioca il posto con Insigne, con Callejon, insomma al Napoli solito, ecco, che poi in alcune partite riesce a giocare in velocità e quindi ci fa vedere cose straordinarie, in altre quando trova squadre un po' più toste e guardinghe fa un po' più fatica, però voglio dire è il Napoli, cioè non è che il Napoli può fare concorrenza alle prime 4-5 d'Europa. Il Napoli ha la sua dimensione, che è quella di una squadra che può arrivare dal secondo, secondo me, al quarto, quinto posto. Sì, la dimensione quello del Napoli. Quella è la dimensione del Napoli. Senti, avendo fatto grandi cose, avendoci fatto vedere partite straordinarie. A proposito di squadre in cui hai giocato e quindi di ambienti che conosci molto bene, mi dai un voto ad Allegri per come ha gestito il caso Bonucci, eccetera? Al massimo dei voti. Anche perché, voglio dire, far capire che comanda l'allenatore, alla Juventus ci vuole pochissimo, onestamente, no? C'è terreno fertile da questo punto di vista. Mai come alla Juventus si può capire che allenatori e giocatori cambiano e la società rimane. E quindi per Allegri è stato facile a un giocatore che, in quanto a miglioramenti, forse è l'esempio massimo, no, nel campionato italiano, perché dal Bari a vincere 5 scudetti di seguito, ad essere il leader incontrastato, ad essere addirittura uomo mercato a livello di grandissime squadre europee, Bonucci mi riferisco, voglio dire, era un bel duello e l'hanno risolto, diciamo, brillantemente. Sì. Ha giocato, ha vinto, è stata una panchina, una partita in tribuna, non è successo niente, poi vedremo a fine campionato. Se le strade si separeranno, sarà stato un litigio, diciamo, un po' permaloso, e quindi ha lasciato strascichi, se no invece continuerà. Io se dovessi scommettere sulla permanenza di uno dei due, non sarebbe Massimiliano Allegri, che adesso si parla di Arsenal, ma comincia a parlare anche di Barcellona. Faccio sentire cosa ha detto oggi. Circola voce che nell'ambito di un commendevole, di una commendevole estensione delle sue competenze professionali, oltre che con l'inglese, si stia cimentando con i rudimenti dello spagnolo. Rispondi al vero. Allora, innanzitutto a scuola facevo fatica a imparare l'italiano, perché ci sono andato poco, quindi andando avanti poi ho cercato di migliorarmi e non perfezionarmi, perché la perfezione non esiste, quindi diciamo che ho imparato discretamente bene il torinese. Perfetto era solo Maradona e anche Michael Jordan, se mi permetti. Vabbè, la ricerca della perfezione porta alla pazzia, quindi ha ragione Allegri. Grande Max. No, mi sembra proprio una risposta giusta. Poi, allora, se dovesse vincere il campionato e magari arrivare tra le prime quattro o le prime due, gli auguro di vincere la Champions, onestamente io a posto di Allegri andrei a fare un'esperienza, se ci fosse la possibilità, ovviamente, perché io anche. Per noi è facile parlare. Poi, io anche, no, ma è quello che avrei dovuto fare Ranieri, Massimo, dai, su. Vabbè, sarebbe stato il massimo in assoluto se Ranieri avesse avuto la forza di cambiare squadra. Però Allegri, secondo me, è il tipo, no, che può fare una scelta di questo tipo, no? Perché insomma ha vinto tutto, e allora prende il vado un'altra parte, cioè, sarebbe ideale. Certo. E sarebbe ideale anche per la Juve, per il gruppo dei giocatori. Ma sono d'accordo con te. No, ma guarda, il mio sogno, visto la simpatia che ho per Allegri, non sono inventivo, ma visto la simpatia che ho per Allegri, ripeto per l'ennesima volta il mio sogno, vederlo con la Champions in mano e poi salutare tutti, e soprattutto quei tifosi juventini che ancora non mal lo sopportano, soprattutto quelli. Però in città, io vivo a Torino, in città non mi sembra di sentire la stragrande maggioranza è questa, però le vedove di Conte sono, guarda che ci sono anche lì a Torino, magari non tante, ma le vedove di Conte ci sono ancora lì a Torino. Massimo, è sempre un grande piacere parlare con te. Piacere per me. Grazie Massimo Mauro. Allora, arbitri, so che vi piace questo argomento, 800 24 00 24, lo trattiamo in modo vocale con la top 3 delle dichiarazioni, rubrica che a me piace moltissimo, in modo vocale. Non sarà la voce di Eddie Vedder, cioè la migliore del rock contemporaneo, sia chiaro? Ma Spalletti contro Cesare a Premium. Sì, poi ma si è parlato per tutta la settimana, sguinzagliando tutti gli ex interisti che sono tutte le televisioni, sui rigori, sui fatti arbitrali, per tutta la settimana. Per farle capire che cercano non ci appartiene, perché noi facciamo vedere tutti gli episodi, ogni allenatore, ogni sabato, ogni domenica, non è d'accordo con Cesare. Sarebbe stata una novità essere d'accordo con Cesare. Ma a parte che non voglio, non mi interessano queste cose, io devo parlare di altre situazioni. Io l'anno scorso, torno a ripetere quello che ho risposto poi a Pioli, su 19 partite ho avuto un calcio di rigore a favore, non sono mai andato a fare confronti con gli altri e si possono andare a vedere su quelle 19 partite poi, e la squadra ha vinto lo stesso. Allora, così Spalletti, ricevo una mail di Claudia. Ciao Carlo, d'accordissimo sul supremo Eddie Vedder, che non guasta, è pure un bell'uomo. Ciao e buona trasmissione, grazie Claudia, volevo leggervela. Dunque, Montella, Aquilani e Siparietto sugli episodi arbitrali. Montella, com'è come maiolista Aquilani oggi? Come la prossima lo volta gli diamo il fischietto a lui, così arbitra lui. Che bravo. Ecco. È d'accordo, no, che oggi era un po' oggi, complicato. Oggi è difficile sbagliarlo, E magari riuscivi a sbagliare anche te, bene, sai. Beh, quel rigore, ragazzi, su ieri, onestamente weekend disastroso per gli arbitri, quel rigore causato da Paleta su Berardi è una roba da, cioè non bastavano un paio d'occhi normali, non servono la VAR e tutti gli aggeggi che volete. Allora, Di Francesco, rimaniamo su quel campo contro Calvarese, appunto. Sì, oggi si fa fatica, vorrei dire tante cose, poi non sarebbe corretto nei confronti di qualcuno, però come ha detto Vincenzo, che lui allena il Milan, io alleno il Sassuolo, e ritengo che ci sono stati troppi episodi sfavorevoli, ma non solo in questa partita, quest'anno ne sono successe tante. Oggi è stato un po' in generale anche la gestione della gara che non mi è piaciuta, il modo di gestire tanti episodi, il fatto che ormai Berardi è etichettato e nonostante anche se ci fosse rigore non gli avrebbe dato l'ammonizione, e in più è innervosito il ragazzo. Allora, Paolo Ciaravero da Fox, ciao. Ciao a tutti. Io e Mauro abbiamo già individuato il responsabile della sconfitta del Southampton nella Coppa di Lega del primo titolo di Mourinho. Non è tanto merito di Ibrahimovic che ha fatto una doppietta, quanto demerito di Poel, allenatore francese del Southampton, che leva Gabbiadini a 8 minuti dalla fine. Se l'hai meritato? Beh, è un cambio che io non rifarei al posto suo, non mi è sembrato molto illuminato, francamente. Però insomma è andata così, poi il fattore Ibrahimovic, quindi sì, quella è una tassa da pagare, ecco. Sì. No, però il cambio è censurabile, assolutamente. No, ma come diceva il tuo collega di Sky Mauro, cioè la sfiga te la vai a cercare. Cioè, non togli uno che ha fatto doppietta e anzi tripletta, perché mi confermi, non serve anche, sì, non serve, l'altro gol era valido. C'è un'altra. Ma poi non togli uno che ti ha fatto 5 gol in 3 partite. Non togli uno che ha fatto 5 gol in 3 partite, a meno che non abbia appunto i crampi o si sia fatto male, cosa che non, per fortuna non è successa. No. Altra cosa che mi stuzzica, Paolo. Allora, Mares dell'Ester fa un tweet: grazie Claudio. Il popolo dei social risponda Ester. Gli si rivolta contro. Serpente, sei di quelli che l'hanno fatto fuori. Allora, io non so se l'hanno proprio fatto fuori, però so per certo che l'incontro con questa delegazione c'è stato. Delegazione dei giocatori? Con la delegazione dei giocatori alla vigilia della partita contro il Siviglia, che quello è stato il momento in cui la società ha preso la decisione, e so per certo che Mares era tra i giocatori che erano stati sondati. Da questi c'era anche Schmeichel, c'era anche Vardy, c'è sicuramente una buona fetta della vecchia guardia, dello zoccolo duro, certo, dello spogliatoio dell'Ester, che, allora, diciamo così, nella migliore delle ipotesi non ha salvato Ranier. Sì, sì, sì. Questa è la più benevola delle ipotesi, sì, che posso fare, avendo ricostruito, sì, anche personalmente, cercando di fare poi quello del nostro mestiere, di avere più certezze possibili. È anche vero che se la società poi arriva a chiedere ai giocatori lo teniamo o no, vuol dire che comunque la società ha già dei dubbi sull'allenatore. Questo va detto, perché poi alla fine poi il tasto rosso lo preme la società. Chiaro. Però nessuno di questi, a quanto ho capito e raccolto, ha mosso un dito per salvare Ranieri. Questo mi sembra andato di fatto. Paolo, guarda che Ranieri, lo sai meglio di me, l'aveva dichiarato pubblicamente, no, in quell'intervista, alzando il dito indice. Basta che i giocatori vadano dalla, certo, società e dicano: non vogliamo più lavorare con lui. È molto semplice. Ed è quello che è successo. Ed è quello che è successo. Fai bene tu a citare quel precedente, perché Ranieri comunque si era accorto di avere, qualcuno, certo, che non lo amava più, che non pensava più di far bene, evidentemente, con questo allenatore. Poi, al di là sulla valutazione sull'ingratitudine, no, queste sono altri discorsi, altre cose. Dimmi un sì o un no: Conte a fine stagione va via dal Chelsea? No, però non c'è, francamente, è un pronostico, non è una, è un pronostico grandissimo. Non è grazie. Una notizia. Grazie, Paolo. Grazie, prego. Paolo Ciaravano da Sky. E così chiudiamo la puntata. Domani, ripeto, lascio il microfono a Giovanni Capuano. Saluto Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Edoardo Lavezzari invece è stato licenziato. Ciao.